Ciao. Ciao. Da quanto tempo? Sì. Vabbè, siamo qui in Exalge, faccio gli onori di casa, è un'associazione di promozione sociale, diciamo che facciamo concerti, attività e oggi presentiamo un libro. Presentiamo... Non un libro qualunque. Non un libro qualunque, assolutamente. Presentiamo Essere Franco, madonna, devo spegnere il telefono. Anche la vibrazione va bene. Sì, sì, guarda, ho messo zero. E, insomma, non lo so, io inizierei dalla lettura, ok, do un minimo di contesto. In questo capitolo che andrò a leggere, in realtà non tutto il capitolo ma solo la fine, c'è un personaggio che incontra il protagonista che si trova in questa comune di scapestrati, gente un po' scalcagnata, conosce questo ragazzo straniero, lui all'inizio lo descrive come un tunisino, algerino, forse un palestinese, da segnalare un po' la citazione a Longiana, in quanto comunque a me sempre ha attirato molto il personaggio fuori dagli schemi, un po' borderline, un po' fuori, quindi ci sono disseminate nel testo varie citazioni a personaggi anche attuali, un po' assurdi, e vabbè, lui lo descrive come un ragazzo straniero, comunque non sappiamo se è tunisino o algerino, però un ragazzo straniero che vedendolo leggere e scrivere gli chiede un favore, ovvero: puoi scrivermi tu una lettera d'amore alla mia ragazza? Perché questo ragazzo vendeva gli ombrelli a Venezia e si è innamorato di una ragazza che gliene ha comprato uno un pomeriggio, e poi per una serie di vicissitudini sono finiti insieme, lui si è innamorato e poi, data la sua natura girovaga, si trova in un'altra città, ma sempre con questo pensiero fisso di questa sua fiamma, e chiede al protagonista Franco di scrivergli una lettera d'amore da inviarle. Franco accetta, gliela scrive, ma adesso vediamo un po' come gliela scrive. Allora, vorrei scriverle una lettera, mi fa Ayman. Alla fine la vita mi ha portato a venire qua. Ma io Ilaria me la sono mica dimenticata, anzi, mi rivedo sempre i suoi occhi azzurri e la sua frangia rossa prima di addormentarmi. E ripenso a quando ci parlavamo negli orecchi e ci dicevamo, ma prima che specifichi qualunque cosa, lo interrompo e gli dico: wow, wow, piano amico, ste cose sono vostre, personali, c'è mica bisogno di scendere così nei particolari. L'ho capita che con sta tizia ci sei rimasto sotto. E poi, dentro di me, penso, caro Ayman, tu ti sogni le scopate con Ilaria e io squali e uccelli assassini farei volentieri a cambio. Franco, mi puoi aiutare? Mi chiede Ayman. Il fatto è che io a parlare me la cavo pure, ma scrivere no. E ci avrei bisogno di qualcuno che mi scrive una lettera per Ilaria, scritta bene, così bene che nel frattempo mi sono imparato a scrivere in italiano corretto. Non preoccuparti, gli dico, te la scrivo io una bella lettera d'amore. Con me davvero non potevi cascare meglio. Cara Ilaria, ci ho pensato molto a sto momento che sarebbe arrivato. Sì, insomma, a sto momento che mi sarei deciso a buttarmi a scrivere qualche stronzata per dirti che mi sei sempre rimasta nei pensieri. E che lo sai, sono sempre stato uno che con le parole c'ha più di qualche impaccio. Non è che sono così bravo, cioè, per imparare sta lingua l'ho anche imparata, ma io sono sempre stato più uno che le cose le fa e le dimostra più che dirle. Ma ecco, penso che in fin dei conti t'accontenterai. Il punto è che da quando ci siamo più visti, non faccio che pensare a te e alle nostre acrobazie e a quelle che avremmo ancora potuto fare. Mi piange il cuore sapere che tu sei là e io sono qua. E chissà quando ci si rivedrà. Con amore, Ayman. E la porto tutto soddisfatto, che sono sicuro mi getterà le braccia al collo dopo averla letta. E infatti, dopo che l'ha letta, vedo che la voglia di stringermi il collo gli manca mica. Ma che è sta merda, mi chiede. Come che è sta merda, gli ringhio. Ascolta, Ayman, io non sarò Dante, ma nemmeno quel merda di Jovanotti. Te una lettera d'amore mi hai chiesto, e io una lettera d'amore t'ho scritto. Ma è scritta male, mi fa, è senza le virgole, persino io vedo che è piena di errori. E scrivitela da solo, allora. Non è giusto, Franco, piagnucola Ayman. Io pensavo che uno studiato come te me l'avrebbe scritta bene. Non sapevo che dirgli ad Ayman, e anche se alla fine gli ho detto che poteva scriversela da solo, la lettera, non posso negare che un po' di pena me l'ha fatta, e che quando mi ha detto studiato non ci ho visto più. Studiato? Ma che studiato? Che vuol dire? Apostrofi, virgole. Ma c'è forse bisogno di ste robe per dire a qualcuno mi manchi? Io non capisco, sul serio, che c'entra avere studiato a scuola e saper scrivere in italiano corretto. Cioè, se io volessi, potrei parlare e scrivere come un notaio. Ma la lingua mica è un codice fisso. Cambia, sarà tra le circostanze, alle persone. E io mi chiamo Franco Berto e parlo e scrivo come mi pare. E certo, non ne devo rendere conto a nessuno, men che meno al primo Ayman che passa. Ci sta. Abbiamo deciso di leggere questo passaggio perché secondo me, cioè, diciamo, era abbastanza rappresentativo, sì, per quanto riguarda l'idea e la proposta, anche l'idea più che del personaggio, dell'autore. È un po' un manifesto linguistico della direzione che comunque ho voluto far prendere al romanzo, perché proprio in questo momento il protagonista si dichiara e dice platealmente: io non sono uno che parla così perché esco fuori da un contesto sociale in cui non ho potuto imparare a scrivere bene o parlare bene, quindi sbaglio apposta i congiuntivi, cioè sbaglio i congiuntivi non apposta, ma perché mi mancano proprio le basi. È un personaggio che proviene comunque da un contesto particolarmente abbiente, una famiglia che lo ha educato, ma che per sua scelta e per sua manifestazione proprio di intenti decide di parlare come gli pare, e questo si traduce nel fatto che lui ha opposto un rifiuto alla società, vive isolato, in un isolamento sociale con altri comunque che si sono autoghettizzati, e parla e scrive così come gli viene, anche sbagliando apposta i tempi verbali, parlando prima al presente, poi al passato, anche nel comunque riportare alla luce dei flashback. Ed è proprio forse il rifiuto più significativo, più estremo, quello di scrivere e parlare senza nessuna regola, senza seguire comunque anche il buon costume, perché lui in tante cose che dice, oltre alla forma con cui li dice, nei contenuti sono aberranti. Quindi è abbastanza esemplificativo un po' di tutta la direzione e anche un po' lo spirito di cui è imbevuto il libro. Che infatti adesso, cioè, parlando, io vorrei tenere sempre un po' le due dimensioni, no? Cioè la dimensione dell'io narrante, certo, del protagonista, e poi la dimensione dell'autore, perché ovviamente a fare questo discorso è il soggetto, Franco, il protagonista. Certo. Ma leggendo il libro noi vediamo che questa dichiarazione in verità assume, diciamo, le caratteristiche di un manifesto teorico all'interno del romanzo, perché il romanzo poi è scritto in una certa maniera. Certo. E risente chiedere anche di tante ispirazioni che poi andremo a... Ti volevo chiedere un po', sì, un po' di questo. Beh, cioè, questo comunque si legge il testo, è abbastanza chiaro che ci sono dei riferimenti espliciti e anche facilmente rintracciabili, perché uno legge questo libro e secondo me automaticamente ci va a vedere il Tondelli di Altri Libertini, che è un testo che per me è stato comunque illuminante e determinante. Diciamo che è stato il primo titolo che ho letto quando ho iniziato questo progetto e che mi ha dato veramente uno scossone, mi ha quasi preso a schiaffi, mi ha fatto capire un po' qual era la direzione da prendere da un punto di vista proprio linguistico, più che ancor prima che di trama, perché io questo romanzo lo considero un romanzo di lingua, non un romanzo di trama, quindi non mi sono tanto rifatto a delle storie che ho letto, quanto più a delle lingue che avevo introiettato, certo, in una certa maniera. E Altri Libertini Tondelli è stato il primo titolo che mi ha proprio sconvolto, che io ho assorbito. Dopo quello sicuramente Nanni Balestrini, perché Vogliamo Tutto è un testo che metto sicuramente tra i primi tre, sicuramente, dei titoli che mi hanno più influenzato. Vogliamo Tutto, ma anche I Furiosi, che per chi non lo sapesse comunque è un libro che è narrato dal punto di vista dei vari membri della Fossa dei Leoni, mi sembra, del Milan, questi ultras che vanno in giro per l'Italia a fare disastri, a drogarsi, a sfasciare tutto, a prendersi a sassate con la polizia, a occupare autobus rovesciandoli sotto sopra. Ci sono delle situazioni sicuramente simili, perché ci sono delle scene, penso quando per esempio il protagonista va a bere con questi suoi compari e finiscono a fare disastri, uno deve prendere la corriera, sale sulla corriera e poi finisce per sboccare addosso l'autista. Ci sono delle situazioni che sicuramente riprendono un po' grezze, un po' estreme, un po' volutamente squallide, e quindi ti direi sicuramente Tondelli e Balestrini sono tra gli autori che più mi hanno influenzato. Ce ne sono tanti altri, perché vabbè, sono autoroni che io quasi mi vergogno a citare come modelli, perché alla fine, se penso a Harry Miller, Céline lo lascerei proprio stare, ma anche un Vitaliano Trevisan, se devo citare un veneto. Comunque questo libro è scritto con tanti dialettalismi veneti, è un flusso di coscienza gonfio di dialettalismi veneti, e ci tenevo un po' a dare anche un'identità regionale, perché tanti autori che ho letto, Trevisan, si sente che c'è l'influenza. Volevo dare comunque un po' un mio taglio personale, certo, essendo veneto non potevo esimermi comunque da cercare. Guarda, per caso io sto proprio rileggendo Viaggio al termine della notte in questi giorni. È sconvolgente. Sì, e merita. L'hai già letto? L'avevo letto ai tempi, ma in malo modo, diciamo. Adesso lo sto riprendendo dall'inizio, sono 3/4 quinti. È veramente incredibile, infatti no, per carità, cioè ognuno, io penso che chiunque abbia letto Céline abbia quel tipo di passione per quel tipo di letteratura, in un modo o nell'altro cerca un po' di copiarlo, emularlo, sì. Ma ti rendi conto che è veramente, è anche blasfemo quasi. Però sì, Céline, Harry Miller, tutti autori che del primo Novecento, ma che in qualche maniera secondo me sono rimasti attualissimi, e che comunque leggendoli ho trovato automatico davvero un po' cercare di riprendere il loro solco, perché comunque il personaggio protagonista di questo libro è un deviato, è un rinnegato, un reietto, e secondo me se devi dare una lingua a un reietto in prima persona, in qualche maniera devi andare a scontrarti con quegli autori. Sì. Sì, ci sta, soprattutto se, come dicevi prima, cioè è un romanzo di lingua, cioè sì. La finalità è, diciamo, prima di tutto la parte espressiva, meno invece la parte di ciò che succede, ciò che non succede, che è secondaria, ma andremo comunque a trattarla. Niente, ti volevo chiedere un attimo, abbiamo parlato di influenze, invece più da un punto di vista formativo accademico, sì. Che diciamo, qual è stato, diciamo, il tuo percorso, anche dove forse è anche iniziata la genesi, grazie alla quale sì. È iniziata la genesi di questo, certo, progetto. Ma allora, il mio percorso direi inizia a 25 anni, perché fino ad allora, adesso faccio un'incursione brevissima per non annoiare nessuno sulla mia vita, però io dopo il liceo mi sono iscritto all'università, prima lettere e poi storia, ma è stato un po' un buco nell'acqua perché non mi ha appassionato, e in breve tempo sono anche finito per deprimermi un po' perché non la sentivo la mia strada, e avevo dentro questo tarlo della scrittura che mi era un po' rimasto da ancora alle elementari, perché tutti un po' quelli che finiscono alla fine per pubblicare un libro, bene o male, hanno già la passione della scrittura dall'elementari o poco dopo, quindi ho un po' ripreso questo pallino, mi sono detto ok, vorrei scrivere per prima cosa, non so bene che cosa, ma sento che la scrittura è un po' la direzione da prendere. Ho cercato una scuola di scrittura online, proprio classica ricerca, sono finito sul sito della Holden di Torino, la scuola di Baricco, ho visto il sito, molto bello, molto colorato, corsi interessanti, sembra una figata. Vedo il prezzo, dico ok, cerchiamone un'altra, e sono finito per trovare questa scuola di scrittura, Lambrate Mall, che nei costi era, diciamo, un po' più accessibile per me, più contenuti, e però di struttura abbastanza simile, quindi una scuola che presentava vari corsi da scrittura creativa, ma anche finendo per andare a scrittura radiofonica, sceneggiatura, scrittura per videogame, quindi una scuola, diciamo, abbastanza a 360 gradi. Mi sono iscritto al biennio e da subito, perché veramente dopo neanche un mese avevo capito che il corso che più mi aveva preso, mi solleticava e mi appassionava era quello di scrittura creativa. Quindi le lezioni, per farvi una panoramica molto, molto stringata, ognuno portava i suoi testi, si commentavano insieme con l'insegnante. Io ho avuto Stefano Valenti come professore, che è uno scrittore che io reputo veramente bravo, ha tra l'altro appena pubblicato un libro per il Saggiatore da qualche mese, e insieme a lui si commentavano i testi, si creava molto confronto in classe, spesso ci si finiva per tirarsi i capelli o lanciarsi le matite addosso. No, in realtà c'era sempre un confronto molto stimolante, arricchente, ci si scontrava comunque spesso e volentieri, perché comunque il feedback non era sempre cazzo bravo, continua così, spacca tutto. Ci si criticava anche, ma sempre in modo costruttivo, quindi sono situazioni che secondo me aiutano a crescere, aiutano anche magari a uscire un po' dal proprio guscio, perché quantomeno le prime lezioni credo siano sempre un po' un po' come trovarsi su un trampolino. Alla fine sei un po' insicuro, non sai bene quale può essere la reazione, quindi i miei primi testi che portavo a lezione erano dei timidi tentativi, sì, di emulazione, un po' riprendendo cose che avevo già letto magari, però ho capito dopo pochissimo che la mia cosa era la scrittura creativa, quindi ho iniziato a delineare un po' questo progetto narrativo, che è nato abbastanza in fretta, perché io avevo già un'idea di partenza. Io un anno ancora prima di iscrivermi alla scuola sono incappato in un video su YouTube, un vecchio servizio della RAI, di un programma che era una specie di roto report, non tanto giornalismo d'inchiesta quanto reportage di varia natura su situazioni, realtà sociali un po' alternative, un po' fuori dagli schemi. E c'era questo servizio vecchissimo dei primi anni 90 in cui andava questo giornalista di questo programma a intervistare un gruppo di punk a bestia, comunque ragazzi che vivevano in una cascina occupata. Cappelloni, sì, con i pidocchi anche, ne parlavano esplicitamente. Sì, sì, abbiamo i pidocchi, però ci facciamo la decolorazione. Ma anni 60? Il video, no, primi anni 90. Ah, anni 90. Anni 90. Okay. Il video è dei primi anni 90 e c'erano queste interviste a questi ragazzi di, appunto, 20 anni, come protagonista del mio libro, 20 anni su per giù, che vivevano di espedienti. A un certo punto, verso la fine di questo servizio, intervistano questa ragazza giovanissima, le chiedono: ma tu cosa vuoi fare nella tua vita? Come lo vedi il tuo futuro? E lei risponde con una tranquillità disarmante, una sicurezza che mi ha sempre fatto un'invidia clamorosa: ma a me, io vivo la giornata, non me ne fotto un cazzo del futuro. E a me questa cosa mi è sempre rimasta molto, mi ha colpito dalla prima volta che ho visto quel video. L'ho trovata molto stimolante da riprodurre su carta, perché in quel documentario io ci ho visto quasi, non dico la trama di un libro, perché poi appunto il mio libro non è un libro di trama, quanto un'occasione di rappresentare un po' dei personaggi borderline. Io ho sempre avuto comunque una grande predilezione per le situazioni e per i personaggi un po' fuori dagli schemi, e quindi è stato per me naturale cercare di fare un libro che in qualche modo riportasse questi personaggi in una dimensione narrativa. E quindi io ho pensato a una storia molto semplice, molto banale, di un personaggio come loro, cioè un ragazzo non necessariamente di estrazione povera, certo, ma anche di famiglia abbiente, che non avendo nessuno stimolo, non avendo nessuna aspettativa per il futuro, decide di andare a vivere fuori casa, a mettersi insieme, a associarsi con delle persone come lui, che come lui hanno mandato a fanculo tutto per andare a vivere di espediente la giornata senza pensare al futuro. E mi interessava molto riportare un po' questa situazione. Esatto, passiamo diciamo dalla teoria alla pratica invece della trama. La pratica, scusa, dimmi. È proprio, è anche questo interessante, perché ti parlavo dei primi timidi tentativi, no, di portare dei testi in classe. Chiaramente all'inizio, quando sei una persona come me, che arriva un po' a 25 anni, che ha sì comunque letto, ma non ha ancora un'identità molto precisa, non sa neanche bene come muoversi, avendo io questa predisposizione e questa naturale passione per le situazioni un po' sporche, un po' grezze, un po' squalide, come quello che si siamo detti, ho iniziato proprio a fare delle banalissime scene descrittive di ambienti al chiuso, abbandonati, proprio descrizioni di sporcizia, di fabbriche abbandonate, il protagonista che dopo essersi scontrato con dei poliziotti finisce in capannoni industriali che cascano a pezzi, con i topi, gli scarafaggi. Quindi sono partito proprio da quello, dalla scrittura di ambienti o di situazioni, scene un po', come dire, di personaggi appunto scalcagnati che magari parlano da soli o si ubriacano fino a perdere i sensi e pisciarsi addosso, per dire, cose abbastanza hardcore, ecco. quello è stato proprio il terreno da cui è partito il tutto. Dopodiché, man mano che ci si confrontava in classe, si metteva sempre più dimestichezza e si leggevano testi determinati come altri Tondelli, Balestrini o anche Alvin Welsh. Non ho citato prima Alvin Welsh, ma anche lui comunque, l'Alvin Welsh di Trainspotting, del Lercio, comunque anche lui mi ha abbastanza influenzato. Ho pensato a questa storia, a questo personaggio che decide di andare a vivere buttato in strada, fa degli incontri e alla fine comunque c'è l'incontro risolutivo, magari ci arriveremo più tardi. Vai, dammi qualche elemento di trama, come poi, se io non sapessi questo, questo è, tra l'altro, io mi sono basato abbastanza sulla dimensione del viaggio dell'eroe. Il viaggio dell'eroe è, cioè, l'eroe che esce letteralmente di casa, fa la sua avventura e fa le sue esperienze, solitamente incontra la figura del mentore, quindi la figura di un personaggio che è al di sopra di lui come esperienze, come conoscenze, come substrato anche magari culturale. Certo. E quindi lo orienta un attimo. Quindi c'è questo personaggio risolutivo alla fine del romanzo, di questo senza tetto in cui incappa il protagonista, che è un senza tetto tra virgolette anziano, comunque navigato sui 50 anni inoltrati, che vive già da tanti anni in strada per un motivo molto preciso e molto triste, quindi ha tutte le ragioni per essere lì a fare la vita che fa. Il protagonista si finisce per associare a lui e passare comunque insieme con lui le giornate, però appunto c'è questa grande differenza tra il protagonista, che è un ventenne che ha tutta la vita davanti e che sostanzialmente ha deciso di rinunciare a vivere per delle cazzate, e un personaggio invece che ha ormai il suo regno è la strada, e quindi c'è questo scontro quasi generazionale che poi alla fine fa capire al protagonista di stare facendo una non scelta che lo porterà a una non esistenza. E dal mio punto di vista proprio personale, credo che non ci sia forse nulla di peggio che condurre a una non esistenza, e soprattutto decidere di condurla da un'età così verde. Certo, cioè, alla fine, se dovessimo fare un piccolo sunto, diciamo, sì, degli elementi fondamentali della trama, diremmo, diciamo, il romanzo, potremmo dire, si apre con un momento di negazione forte che viene protratto, diciamo, gli incontri di questi personaggi un po' da sobborghi, un po' da... Sì, cascine abbandonate. Sì, un po' ai margini, esatto. Fino a che, diciamo, c'è in un crescendo questo incontro definitivo. Questo incontro definitivo che, se lo possiamo dire, l'incontro, certo, con il barbone. Sì, lo spastico viene chiamato da protagonista perché appunto fa fatica a muoversi, cammina zoppicando, e quindi lo chiama lo spastico. Anche questo poi restituisce un po' la natura controversa del protagonista, che non è un eroe innanzitutto, è un antieroe, possiamo dire. È un personaggio che ha in sé sia dei lati positivi, perché comunque è capace, come c'è scritto nella quarta, di grandi slanci di generosità, di comunque atti di solidarietà, che lui neanche oltretutto classifica come tali, cioè lui non lo fa perché è solidale, lui non sa di esserlo, gli vengono automatici, però dall'altra ha anche una natura fortemente carnetta, carnefice, da predatore, ogni tanto è preda, ogni tanto è predatore, comunque è un personaggio sicuramente che ha delle asperità forti, e il fatto che lui chiami lo spastico questo personaggio, che oltretutto con lui cerca sempre di avere una parola di conforto, di supporto, di insegnamento, fa capire comunque che per larghi tratti nel corso della storia è un personaggio detestabile. E poi viene fuori anche in altre situazioni, in altri aspetti del suo carattere. Però ecco, la sfida è stata anche tratteggiare un protagonista che fosse comunque detestabile anche da parte di chi lo scriveva. Quindi io mi sono trovato in certe giornate di scrittura a quasi, tra virgolette, dico, spaventarmi, perché mi rendevo conto di che mi ero molto allontanato dall'idea iniziale di comunque, sai, quando inizi a scrivere un romanzo magari su un protagonista che è scritto in prima persona, cerchi di metterci un po' del tuo alla fine, bene, certo, o male, che se non del carattere, comunque della visione del mondo. Poi ho preso molto anche involontariamente, assolutamente, però poi ho cercato di prendere molto le distanze da questa cosa. Ho cercato di tratteggiare un personaggio appunto odioso e aspro in tante parti del suo carattere, e è stato comunque abbastanza logorante poi nel lungo andare, perché ti trovi a provare fastidio quasi per il personaggio che stai scrivendo. Certo, ma è una cosa che assolutamente volevo fare, anche per rendere il tutto più credibile comunque. Perché poi, diciamo, alla fine, dopo questo ultimo incontro, diciamo, c'è un momento di chiarimento, diciamo, un momento di un po' ricredersi da parte del protagonista. Sì. Perché, diciamo, l'incontro con lo spastico e sì, la morte dello spastico, sì, lo spoileriamo. Mette il protagonista, no, al tappeto psicologicamente, e nella condizione di dire: beh, cazzo, forse non è il caso che io perda la mia vita così, a vivere appunto la giornata a raccogliere le monetine o i pezzi di cibo che chiedo ai passanti, e cioè, magari provo a dare un'impennata alla mia vita, una svolta. Poi è molto lasciato sfumato questo, certo, questa cosa, perché non sappiamo bene nell'epilogo della storia cosa farà il protagonista. Sappiamo solo che lui prende un treno e torna in Veneto, perché comunque lui, il libro si apre con lui che se ne va dal Veneto e va a vivere in una metropoli non precisata, e il libro si chiude con lui che invece torna. È un ritorno a casa, il più classico dei ritorni. È un ritorno a casa, ma con qualcosa di diverso rispetto a quando si è partito. Esattamente, no? Questo è proprio il nocciolo del viaggio dell'eroe o dei romanzi comunque di formazione. Questo è un romanzo di formazione, anche se poi è molto atipico come romanzo di formazione. No, esatto, ma era proprio, cioè, quello su cui volevo spendere qualche, sì, parola, perché parlavamo quando ci siamo trovati, cioè, sui romanzi di formazione in generale, sì, diciamo, su, no, quindi la genesi di un personaggio, il passaggio, esatto, da un percorso più o meno tortuoso e l'affermazione di qualcosa, ecco. Sì. Io volevo in generale domandare che cosa significa un romanzo di formazione oggi, cioè... Oggi ovviamente i romanzi di formazione non possono essere come lo erano nell'Ottocento, nel Novecento, quando comunque sono nati. Oggi sicuramente è cambiato tutto rispetto a una volta, frase fattissima, però io penso che... partiamo dal fatto che questo è un romanzo di formazione abbastanza atipico. Perché? Perché parte con un personaggio che non ha questa grande fame di vita e voglia di crescere come persona, ma anzi esordisce proprio dicendo: io non ho più un cazzo da chiedere alla vita, sono totalmente alla mercé della vita e non ho non ho alcuna prospettiva, non ho alcun desiderio anche di ritagliarmi un mio spazio, anche solo, cioè, di farmi comunque una mia cerchia di affetti, gli amici, la famiglia, un lavoro che mi dia delle soddisfazioni personali. Quindi non è un personaggio come nei classici romanzi di formazione che esce, no, di casa e impara cose. Lui invece disimpara quello che credeva fosse ciò che, diciamo, lo definiva in quanto tale. Lui esce di casa, si rende conto in realtà che tutto quello che pensava, ovvero che la vita è una schifezza fondamentalmente, non ha nulla da insegnarti, non è vero, e quindi è un romanzo di formazione quasi al contrario. Per cui alla fine lui capisce che di vita e di esperienze e di pasta asciutta ne deve mangiare ancora per forza tanta. Quindi è un po'... E questo perché? Perché secondo me oggi c'è chiaramente nella società in cui viviamo oggi siamo davvero al punto in cui possiamo avere tutte le informazioni che vogliamo. Possiamo arrivare davvero a 20-22 anni che abbiamo un bagaglio di conoscenze, di informazioni che magari, non lo so, 30 anni fa, 40 anni fa ottenevi in realtà in 40 certo. anni, in molto più tempo. Oggi magari arrivi molto prima a conoscere certe cose, a fare certe esperienze, a introiettare determinate situazioni, per cui poi ti trovi un po' che magari, come mi sono anche sentito io, può essere, c'è, cioè, tanto comunque di personale, che a 25 anni ti dici, boh, ma io mi sono fatto già un sacco di mie esperienze, ho già letto quello che sentivo di poter leggere, cosa mi rimane adesso? Quindi secondo me è un po' figlio del fatto che siamo davvero... abbiamo un sacco di informazioni rovesciate addosso ed è davvero difficile anche districarsi nella mole di informazioni, di stimoli che puoi avere. Secondo me oggi siamo un po' troppo stimolati, ecco. Per cui ti ritrovi a un certo punto della vita in cui non ne puoi più di questi stimoli e quasi fisiologicamente ti ritrovi a chiuderti un po' riccio. Almeno io comunque ho notato questa tendenza in persone a me vicine e credo che sia tristemente causa un po' dei tempi in cui viviamo. Un po' di titanismo difensivo. Sì, esatto. Ci sta, mi trovo abbastanza d'accordo. Non è un caso che proprio in questi anni, secondo me, ora non c'entra tanto con il mio romanzo, ma sì. Però non è un caso che in questi anni c'è stato il fiorire del fenomeno degli hikikomori. Cioè io non credo, cioè, una volta esistevano gli hikikomori, non lo so, negli anni 80, secondo me ce n'erano veramente pochi, potevano essere davvero dei casi isolati, mentre oggi c'è davvero una tendenza, soprattutto nei paesi in cui è nato. Diciamo anche perché la tecnologia, diciamo, aveva ancora forse un'invasività diversa. Esatto, era più una cosa di nicchia, per pochi magari, ecco, era una cosa più... Per gli eletti. Per i pochi eletti, sì, era una sicuramente più esclusiva rispetto ad oggi, che invece è letteralmente neanche nelle case, come si diceva una volta, nella tasca delle persone proprio. Cioè, ma quindi, cioè, non che mi devi dare una risposta esplicita, però, insomma, la morale qual è? Quindi è non chiudersi troppo, non aprirsi troppo e lasciarsi andare, tra virgolette. Esatto. Io credo cercare di raccogliere sempre qualcosa da chi hai davanti, senza porti su un piedistallo, come spesso fa il protagonista di questo libro, che quando incontra e racconta i personaggi che ha davanti, dà proprio l'impressione di, boh, ma questo, cioè, io sono meglio di lui comunque. Non ho nulla da imparare da questa persona perché io so già tutto. Invece no, al contrario, cercare sempre di avere un approccio che chiunque, anche la persona che tu ritieni, e non dovrebbe essere così, ma che tu ritieni più in basso di te, può avere qualcosa da offrirti, può avere un insegnamento e può soprattutto darti dei bei momenti anche. Perché alla fine questa sua chiusura e questo suo essere comunque un po' un brontolone, un po' uno scontroso, gli preclude delle possibilità e delle delle occasioni di crescita, che poi avrà solo alla fine, a caro prezzo anche, perché la morte del senza tetto finale è comunque, tra virgolette, un po' anche colpa sua e figlia di questa sua natura molto scontrosa, molto sai che c'è, vaffanculo, me ne vado. Secondo me l'età adulta inizia proprio nel momento in cui tu rifletti un attimo e non te ne vai e rimani lì ad ascoltare. Ci sta. Quindi anche, ecco, per chiudere questo messaggio un po', cercare di non ragionare singolarmente e in modo individualistico, come tra l'altro siamo portati a fare oggi, perché secondo me c'è molto questa tendenza a esasperare l'individualismo, ma cercare invece di aprirsi, non troppo come dicevi, però avere un'attitudine il più collettiva possibile. Ci sta, cioè, ritornando sempre al protagonista, diciamo, secondo me un pochino si avverte questa cosa che è tendenzialmente piuttosto generazionale, no? Cioè di, tra virgolette, conoscere le regole, ma allo stesso tempo presumere di essere l'eccezione poi, ovvero come se le regole valessero per tutti, ma poi non proprio per tutti. Esatto. Per qualcuno, o qualcuno ne è esente invece. E poi in verità vediamo che questa cosa alla fine non è così vera, ecco, no, diciamo, nella morale del personaggio. Esatto. Ma guarda, facendo, allora, ci eravamo detti, sicuramente bisogna leggere un passaggio di chiusura, che lo terrei ancora tra un attimo. Certo. Volevo solo fare una domanda invece più, cioè questa è più libera, personale, adesso isolando, sì, da romanzo, ovvero, cioè, qual è il destino della letteratura? Che è una domanda ampia, però se non lo si domanda, cioè, uno scrittore, non so. Qual è il destino della letteratura? Della letteratura, sì. Direi in Italia, magari, che non mi allargherei. Libero. Ma io credo che il destino della letteratura sia cercare sempre e comunque, come diceva Hemingway, partire sempre da qualcosa di vero, intanto. Quindi non cercare di inventarsi queste grandi storie, cercando magari anche il facile consenso, la facile pubblicazione. Solitamente la letteratura si divide, secondo me, in due macro categorie: la letteratura che vuole essere venduta e la letteratura che vuole rimanere comunque e per essere anche fruita possibilmente molto dopo l'effettiva pubblicazione. Quindi il destino della letteratura è un po' difficile. Io tra l'altro lavoro anche come redattore, quindi di libri ne incontro tutti i giorni e soprattutto lavoro nello studio in cui lavoro. Lavoriamo soprattutto i libri di varie case editrici che però fanno tutte parte del gruppo Mondadori, quindi diciamo libri soprattutto commerciali. È un po' difficile perché tanti libri che leggo, che sono soprattutto libri di trama, poi te li dimentichi veramente in neanche un mese. Forse non è neanche il loro intento, esatto, sono ricordati. I libri di una stagione, che ormai anche lì è un po' come funziona anche, penso, nel mercato discografico e un po' in tutti i mercati. Ora le cose durano veramente neanche una stagione, una settimana, no? Ce ne si dimentica subito e quindi si disperdono in un mare di cose trascurabili alla fine. I libri che rimangono sono purtroppo pochi, quindi secondo me il destino della letteratura dipende da noi alla fine, banalmente. Bisognerebbe cercare di fare più libri che denuncino magari, secondo me, certe realtà sociali, anche certe tendenze comportamentali che magari abbiamo anche assorbito e non ce ne rendiamo bene conto, o comunque ne parliamo giusto per le ricorrenze, no? Quindi il destino della letteratura, secondo me, dovrebbe andare più verso una rappresentazione più fedele possibile della realtà, senza andare. Io non sono molto, per esempio, non sono molto un fan dei libri fantasy, per esempio. Sono abbastanza più orientato a libri che parlano della realtà e che soprattutto nascono con i piedi ben piantati nella realtà, che poi possono essere assolutamente dei libri di fiction o di realtà, comunque di situazioni un po' estreme, un po' surrealiste anche, non è che per forza di fare dei romanzi sociali e realistici, ma quantomeno portare sul palco delle tematiche che poi comunque riscontri nella realtà di tutti i giorni. Ci sta. Sì, non so se sono riuscito a rispondere. La domanda era aperta, quindi era ammessa qualsiasi risposta. Dai. Non lo so, io magari c'è qualche altro punto, cioè, che vogliamo toccare. Ma allora, che non abbiamo ancora toccato. Mi ero segnato la parte da leggere, che è abbastanza, sì, certo, rivelatoria, perché è un po' è un po' lì che capisci perché il personaggio Franco ha fatto certe queste scelte così estreme, così radicali, e perché comunque io anche questo è scontato da dire, ma siamo un po' tutti figli del contesto in cui nasciamo, ed è chiaro che se una persona viene cresciuta a botte e a insulti e a sentirsi sminuito comunque anche da parte di chi ti ha cresciuto, allevato, per forza di cose finisci per essere comunque una persona rancorosa, una persona piena di risentimento, di violenza. Quindi ovviamente un po' in tutta la durata del libro sei portato a chiederti come mai il protagonista fa queste cose, si comporta in questo modo, ha degli scatti anche violenti e di ira. Lo capisci perché è stato cresciuto con quello. È chiaro che se io cresco una persona a schiaffi, una volta che sarà cresciuta, quella persona educherà allo stesso modo, o comunque si comporterà allo stesso modo con chi ha davanti. Quindi è un po' questo anche il senso, il fatto che purtroppo fa tanto il tessuto in cui ti trovi a svilupparti come persona. Beh, allora direi vado andiamo su questo passaggio. Dai. Ecco, qua il protagonista praticamente parla di quando era a scuola e da dove nasce un po' tutta questa sua visione fortemente nichilista della vita. In terza media ho dato fuoco alla scuola, per essere precisi alla palestra della scuola. Adoravo quella palestra, finché non ci ho sboccato un giorno che avevamo ginnastica la prima ora. La sera prima avevo esagerato con la vodka. Parevo uno zombie quel mattino. La gentile l'ho pregata ad abbonarmi 10 minuti di corsa, che proprio non me la sentivo. Ma la troia c'aveva il cognome che era l'opposto dell'anima. L'anima più nera fra tutte le anime di quella scuola. O fai riscaldamento come gli altri, mi ha detto, o ti becchi l'insufficienza. Io in ginnastica ci puntavo, voglio dire. Era tra le materie insieme a educazione artistica dove non dico che mi sentivo fenomeno, ma nemmeno un imbranato. Ma da quel giorno in palestra mi hanno perseguitato per più di un anno. Non facevano che ricordarmelo, soprattutto nell'ora di ginnastica. E se ti arriva a stare in culo un'unica cosa che aiuta a sfogarti, diventa un problema. E in terza media, quella palestra, mi stava in culo come mi stavano in culo insegnanti e compagni. Per non parlare dei bulletti, che molti erano dell'est o nordafricani, ma pure italiani, anzi, che dico, veneti doc, molti di buona famiglia. Fin lì mi divertivo un mondo in palestra. Ti spogliavi di tutto, la divisa, tanto per incominciare. L'aria t'accarezzava le gambe e le braccia nude. Quando c'entravo, mi sentivo un animale fuori la gabbia. E se si giocava a pallavolo, schiacciavo in faccia a chiunque ci avessi davanti. Che potevi averti gli occhiali, l'apparecchio, potevi essere un bullo o una femminuccia, non faceva differenza. Ti schiacciavo in faccia, magari ti facevo anche partire un dente. Meglio ancora, godevo il triplo. È capitato diverse volte. La gentile recitava la parte della pacera, ti obbligava a chiedere scusa, dopo ioni. Ma si abbassava la testa e si chiedeva scusa, che tanto la volta dopo schiacciavi più forte. Occhio che adesso sbocca. Se osavo anche appena respirare, erano subito lì a ridermi dietro. Odiavo i materassini, la palla medica, pure quello stracazzo di quadro svedese. Che cazzo di nome è, poi, quadro svedese? Che razza di problemi c'hanno lassù per andarsi a inventare una trappola simile? Allora, mi sono messo a preparare sto piano. Ci ho tirato dentro Davide, l'unico di cui mi fidavo. Che era pieno di problemi, Davide. Era tipo semi-ritardato. E per un periodo le hanno pure appioppato la maestra di sostegno. Ma intelligente, sì, insomma, a modo suo. Ci aveva una fiamma negli occhi. Gli brillavano come se dentro gli divampasse un incendio. È stato merito suo se mi è venuta l'idea di dare fuoco alla palestra. Davide non ti guardava, t'attraversava con lo sguardo. A casa lo mazzolavano di botte. Ci aveva ematomi dappertutto, senza contare quelli che gli procuravo io in cortile, a ricreazione dopo scuola. Penso che il padre fosse alcolizzato, pure lui, e la madre una zoccola. T'ho detto penso, non c'ho certezze. Su una cosa però non c'era ombra di dubbio. La gemella, che si chiamava Jennifer, era un troione da competizione, che ci aveva proprio il gusto di succhiare cappelle. E lasciava il numero non solo sui muri dei bagni o nei sottobanchi, ma pure sui muri del centro. Nella scuola Jennifer era la Coca-Cola. Tutti, se dici Coca-Cola, ce l'hanno presente. Trovami uno che non si è mai fatto un sorso di quella merda. Ecco, Jennifer era la Coca-Cola della scuola. Ma no, Franco, che dici? Tu sei pazzo. Pensava che era uno scherzo, come quando dicevamo di chiudere il bidello nello sgabuzzino. Dopo l'ha capita che facevo sul serio e all'inizio si è messo sulla difensiva. Bisogna ringraziarla, Jennifer, che senza Jennifer sarebbe stato difficile convincerlo. Scusa, Dave, gli faccio, ma se sapessi che tutti gli stronzi di sta scuola si chiamano mia sorella in palestra, do sono le cose. O do fuoco a loro o do fuoco alla palestra. Tira fuori i coglioni, Dave. C'hai solo che da scegliere. Se dai fuoco a loro, rischi la galera. Ma se dai fuoco alla palestra, cosa pensi che rischi? La nostra palestra già cadeva a pezzi 40 anni fa. Faremmo un favore all'edilizia a tirarla su. E un favore a tua sorella. Quindi lo convinco. Una sera abbiamo scavalcato i cancelli. Siamo entrati dalla finestra sul retro, per poco non ci ammazzavamo. Una volta dentro la palestra, spargiamo la diavolina. Davide mi passa i fiammiferi. E questo è il fuoco, signore e signori. Burn, baby, burn. Alle prime fiammate dico a Davide che dobbiamo tagliare la corda. Solo che il culone non si scrosta. Pare come rapito da quello spettacolo, quasi volesse gustarselo a fondo. Non fraintendermi, per me fu lo stesso, almeno i primi secondi. Com'è che si dice? Catartico. Fu un momento catartico, che di colpo mi fu tutto chiaro. In ogni scuola e di ogni epoca ci sono quelli che non gli va di studiare. Pacifico. E intendiamoci, manco io mi sono mai visto come topo di biblioteca. Ma la verità che il fuoco mi rivela è un'altra. Sono lì che mi faccio due passi nella nebbia per smaltire tutta la presa bene, solo che non riesco a fermarmi. Talmente sborniato che decido di camminare e camminare e andare fin dove le gambe me lo permettono. Chi se ne frega dove, non mi interessa. Mi basterà trovare uno spiazzo, una panchina e sedermi. E quando mi stendo a godermi le stelle e ripenso a tutti i discorsi sulle passioni da coltivare e i progetti futuri, realizzo che io di passioni e progetti non ce n'ho uno manco per sbaglio. Ma la cosa non mi spaventa, al contrario. La gente non fa altro che preoccuparsi d'averci un lavoro, degli amici, un tetto sopra la testa, ma io non ci vedo niente di speciale. Non mi sento proprio tagliato per ste cose qua. Il giorno dopo, comunque, stiamo sul Gazzettino. A dire il vero, ci finisce solo Davide, che si prende la colpa e la scena. E per parecchio si è anche discusso se non si fosse trattato di suicidio. Sarebbe superfluo dire che di lì in avanti rigo diritto, fino all'università, superiori comprese. Dopotutto, vedere la palestra bruciare era stato come provare un orgasmo multiplo. Insomma, che cosa potevo chiedere di più? E poi è venuto il turno dell'Uni. Ricordo che alla fine del liceo ci avevano detto che all'Uni sarebbe stato tutto diverso. A nessuno sarebbe fregato di te. Sarete numeri, ragazzi, non più persone. Al che mi chiedevo se stavo per entrare all'università o in un cazzo di lager. E in ogni caso erano tutte stronzate. Che deve esserci per forza qualcosa che non va nel mio muso o nella mia voce, o ancora di più nel fatto che ho la tendenza a dire sempre quel che mi passa per la testa. E del resto l'onestà è una dote rara di questi tempi, non credi? Ed è per questo che in me abbonda fin troppo, un po' come certi fiumi abbondano di salmoni. Per anni mi sono visto anche il più rincoglionito fra i rincoglioniti, risalire la corrente e fregare gli orsi appostati attorno. E intanto io rimanevo indietro. Semestre dopo semestre mi accorgo che stare in mezzo alle persone mi crea disagio. Parlare ad alta voce davanti a tutti, non ne parliamo neanche. Dopo un tot di tempo, su per giù annetti di lezioni e sessioni bruciate, capisco che mi importa più di nulla, che di risalire la corrente non c'ho cazzi. C'ho solo la pressa di sfanculare tutto e andarmene in grande stile. Insomma, per essere un salmone, prendo solo pesci in faccia. E nella bocca di più di un orsacchiotto, ahimè, ci finisco pure. Una volta che cominciano a sventrarti, sei caput, buona fortuna. Puoi dimenarti quanto ti pare, supplicarli di ributtarti in acqua. Che sei di fretta, coddio, devi correre a laurearti, trovarti un lavoro, mettere su casa, famiglia, manisba. Alla fine ne esci che sei tutto sbocconcellato e sono cazzi tuoi. Puoi anche tornare in acqua, ma non noti più come prima. Così un giorno mi riempio di benzina la fiaschetta per liquori. È un venerdì, che c'è da poco smesso di far caldo, non chiedermi se è ottobre o fine settembre. Il palazzo della mia sede era un edificio rosa a due piani, scrostato fuori, impolverato dentro. Il ritrovo preferito di ratti e scarafaggi. Dubito che un sano di mente potrebbe arrivare a sentirne la mancanza. Quella volta è stata complicata però, nessuna finestra rotta. Devo attendere in bagno finché non fa buio. E poi, quando esco, mi do la gioia più sfrenata. Sfondo le porte di diverse aule, rovescio qualsiasi cosa mi trovo davanti. Credici o meno, ma per qualche istante mi sembra di rivedere Davide lì accanto. E lo vedo, e lo vedevo, che era contento. Bravo fratellino, mi sorrideva con le fiamme negli occhi. Brucia tutto. Ci stava la lettura, ma a me piaceva l'idea di chiudere con la lettura finale. Anche a me. Se vuoi aggiungere qualcosa. Ma solo che, diciamo, qua comunque si nota abbastanza il contrasto di questo protagonista che ha sì degli slanci di generosità e ha delle positività, ma appunto è comunque carnefice, perché c'è questa figura di Davide, questo ragazzo con evidenti problemi, che è anche seguito da un insegnante di sostegno, che lui fondamentalmente travia e lo porta dalla sua, lo convince a seguirlo in questo piano folle di dare fuoco alla scuola, e anche il fatto che comunque lo dice di menarlo, insomma, fa capire un po' i contrasti di questo protagonista. Non è stato semplice, però alla fine devo dire che un po' esce fuori questo personaggio che ha tante sfaccettature, e secondo me anche, ecco, mi chiedevi prima del destino della letteratura, cioè uno degli obiettivi secondo me vitali della letteratura è sempre di creare personaggi non bidimensionali, certo, ma il più sfaccettati, il più complessi possibile, e parte tutto da noi alla fine. E più reali forse, no? Anche, senz'altro. Ci sta. Per me ci siamo, se avete qualche domanda, qualche cosa. Grazie. Se no chiudiamo. Grazie. Ma io una domanda un pochino più decentrata ce l'avrei, ma più una curiosità, perché certo, mi incuriosiscono in retroscena. Sì. Volevo chiederti del tuo processo di scrittura, del tuo processo creativo, se ne hai uno, se ci sono delle tipicità, degli schemi, delle ricorrenze. Ma allora, io lo prendo molto come se fosse un lavoro, quasi anche impiegatizio, se vuoi, perché la stesura di questo romanzo mi ha portato via la vita, come è giusto che sia e come deve essere quando scrivi un libro. Per cui tanti giorni, soprattutto magari, ecco, questo libro l'ho scritto soprattutto nel periodo del Covid, quindi giornate in cui proprio solo il suono, il verso dei grilli fuori casa, mi chiudevo in casa proprio 8 ore anche consecutive a scrivere, quindi lo prendo proprio come se dovessi andare a sedermi in ufficio. Mi faccio quelle ore filate dalla mattina alla sera in cui butto giù un sacco di cose. Io sono molto cerebrale nella scrittura anche, quindi posso partire anche solo da una frase, da una parola, e lì ci costruisco appunto una scena, una situazione. Questo è un libro, ecco, come dicevamo prima, non tanto di trama ma di situazioni, quindi tanti capitoli io li ho scritti come delle situazioni vere e proprie, con un inizio e una fine, e ci impiegavo proprio delle giornate intere, quindi scrivere di getto e poi rivedere il tutto, sicuramente essere maniacali nelle riletture. Ecco, c'è tanto processo di revisione. Questo per me è fondamentale, ti dico anche per il lavoro che faccio, spesso mi arrivano, quando faccio gli editing magari, mi arrivano dei manoscritti di privati, non sempre per carità, però noto tanta mancanza di cura, e la mancanza di revisione è abbastanza palese, perché basta trovare anche solo pochi refusi o comunque leggere magari frasi che sono, che durano 7 righe, lì ti accorgi che la persona non si è riletta ad alta voce, perché banalmente le sarebbe venuto un infarto probabilmente se avesse provato a farlo. Quindi rileggersi tantissimo, quello per me è fondamentale, e accostare al processo di scrittura la lettura. Non si scappa, secondo me, se scrivi devi leggere. Lettura di altri o di se stesso? Lettura di altri. Ah, okay. Di altri, di romanzi, di titoli, o anche di... Io ho letto, per esempio, alcune antropologie di realtà di strada, ho letto una bellissima antropologia, Reietti e Fuorilegge si chiama, di questo reporter che dal 94 al 2009, mi sembra, comunque per un sacco di anni, insieme a un fotografo ha vissuto nelle strade di San Francisco, andando a documentare le situazioni degli homeless, quasi tutti eroinomani o comunque alcolizzati, ma 8 su 10 eroinomani o comunque dipendenti da varie sostanze. E per dire, mi sono letto quel libro, era un tomo di 600 pagine con le fotografie e le descrizioni molto puntuali, cioè non tanto narrative ma proprio proprio analitiche delle situazioni in cui si sono trovati questi due. Quindi qualsiasi cosa ti può dare fieno in cascina per il progetto che hai per le mani, per me assolutamente ci sta. Quindi anche che ne so, la storia dei movimenti, ho letto un libro sulla storia degli squatter, il movimento dello squatting a Londra negli anni 80 e 90. Anche quello comunque ti può dare delle fonti poi di ispirazione per scrivere delle scene, tratteggiare dei personaggi, perché per esempio nell'antropologia che citavo prima, anche lì c'erano dei personaggi veramente fuori di testa, che pur senza essere narrativi, vabbè, ovviamente ti ci affezionavi, e alcuni di loro finivano per morire poi, magari perché finivano per essere trovati con l'ago in vena ancora, ed era come se morisse quasi un personaggio di un romanzo, cioè avevi quella grevezza un po' che chiaramente quando hai un certo grado di sensibilità superiore magari all'organismo unicellulare, ovviamente ti coinvolge e ti ci affezioni. E sulla scrittura direi questo. Poi sicuramente fare una scuola di scrittura ti porta un po' a scontrarti con altre persone, e le lezioni funzionavano anche in un modo molto, cioè secondo me, che ti aiuta, ecco, perché leggere ad alta voce i tuoi testi davanti ad altre persone, ricevere il loro feedback, trovare comunque un po' a spiegare anche le tue ragioni, un po' a cercare di cogliere il più possibile il punto di vista degli altri, è un esercizio che è molto stimolante ma anche difficile, ti porta magari a rivalutare un po' te stesso, il tuo lavoro, ti costringe un po' a decentrarti. Esatto. E quindi, cioè, io questo comunque lo consiglio, se uno mi chiede ma è servito la scuola di scrittura, io dico sì. E penso che anche lì un po' in Italia questa cosa è un po', mi dispiace, non c'è tanta considerazione ancora rispetto a come c'è in America per esempio, o in Inghilterra, ma soprattutto in America, che ci sono un sacco di scuole di scrittura, tanti scrittori attuali americani sono usciti da scuole di scrittura, e c'è un po' la tendenza a considerarli inutili, che questa idea che lo scrittore deve essere un illuminato che scrive, la prima cosa che scrive di getto è buona, non deve neanche revisionarla, più magari ti strafai di cose, sei nato a Torre d'Avorio, più uscirà un capolavoro. In realtà la scrittura è intanto confronto, perché non puoi scrivere nella cameretta senza confrontarti comunque sul tuo testo con qualcun altro, perché banalmente poi lo leggerà qualcuno, si spera, quel testo. Quindi avere un confronto con il mondo fuori e un po' essere pronti anche a dover rivedere le cose, ecco, non affezionarsi magari subito alla prima idea che reputi interessante o figa che ti esce, essere pronto ad avere la flessibilità, la maturità di dire questa cosa posso farla ancora più figa di come mi è uscita la prima volta.